Ica. In chi casuni, brute, chi inveni su come i funge, in vial blignì. Oh, se genera scur de finester, in stan che chi. Par che trovasse no de fità. Adesso però, gelciare in tanti. Quanti famili che gli andà sta. Chi è una strada, mesa tagliata fora in d'un pra. Là è una fabbrica, nessù ne giò. Città, città. Dem de mangià. Vusen, chi l'è? Dem de mangià. Vusen, laggiù. Fra un tram e un car, sempre quel sgar. Le un operare, mi disi. Dem de laura. Un operare, chi della fabbrica, de chi magari can la saca un desperà. Sas, contra i mur, scur de chi ca. Sas, in chi so. Dem de mangià. Sas, chi so. Dem de lavorà. Sas, chi. Se no, cupem purcuni. Sas, contra i mur, de chi casuni gnuc, che gelà. Vedrit, tendì neuve ai finester, a quella luz d'ora, su no perché, te disariset che l'è una sala. Parlin. Buffet, contrabuffet, salle à manger della famiglia pulita, miet, fieu e musagete secondo. Radio Marelli Milano. Tavola che despreparen. Radio Marelli Milan. Concert. Di Delio Tessa, Ica, Milano 1932, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International, BYNC ND.